silencio, dammi una voce, dammi un perché. Dovrei cercare dentro la voglia che più non c'è. Dovrei spiccare un volo libero, se non ho muti cristalli per sfracellarmi. Un vento tiepido soffierai. Dammi coscienza, sprazzi di luce, una bugia. Parlami ancora del ragazzino in fondo a una via. Prova a fermare un gioco stupido che non ha terre di pace. Torna a scaldare un cuore gelido che non ha fiamma ormai. Puoi sconfinare nella penombra, puoi giustiziare quella mia ombra, puoi camminare tacco e punta poi sulla mia sabbia, puoi scardinare anche la rabbia. Dammi giustizia, vita o veleno che brucia ormai. So masticare lenta la foglia che scioglierai, perché trovare un mare limpido se non ho scuri fondali. Dover naspare un cielo in bilico sopra non crolla mai. Puoi trascinare questa vacanza dentro le reti di una paranza, tutte le lune sull'asfalto blu di questa sera. Verso le fosse di una galera calpestare anche le ossa. Danzare al ritmo di una macossa, come un giullare al buio brinderai alla tristezza. Con il boccale dell'amarezza potrai spaccarlo anche per terra. Tu puoi fermare questa mia guerra, forse in quei coci aguzzi e opachi tu ti taglierai. Ed il mio azzurro fiume timido sanguinerai.